ragione al suo passare per farsi ammirare un po'. Corro per poi rallentare sotto il sole a marciare, l'ordine è di sparare, ma io no, no, no, no, no, siamo liberi come quadri senza cornice, molto più liberi come onde di superficie, liberi come ruggine senza vertice, liberi come piante senza radice. Farsi ammirare un po'.